La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino, 16:31, primi 40 secondi, vi saluta, vi ringrazia, vi invita a intervenire naturalmente come sempre all'800 24 00 24 per gli opinioni 349-238-6666. Di cosa parliamo oggi? Dell'ipotesi che il trattato di Schengen, quindi la disciplina della libera circolazione delle persone per i paesi dell'Euroarea che aderiscono ovviamente al trattato di Schengen, nonché poi alle misure coordinate di sicurezza per i confini, finisca a salti per aria, perché questa è, avete trovato sui giornali in questi giorni un crescendo di questa ipotesi, è una delle code lunghe della crisi sull'immigrazione aperta dopo l'uscita estiva della Merkel, spalancando le porte ai siriani, agli afghani e a tutto quello che abbiamo molte volte commentato, perché ha fatto saltare la capacità, possibilità di assorbire l'ondata nei paesi centroeuropei, e quindi di cui le iniziative di numerosi paesi di tornare ai controlli delle frontiere interne. Prima questione. Seconda questione, il montare delle polemiche in realtà sulla mancanza di uno strumento comune per il controllo delle sicurezze esterne, cioè quelle che riguardano poi soprattutto il problema dell'Italia, nonché della Grecia. Ecco, in questi ultimi giorni la cosa è diventata sempre più alta come tensione, perché siamo in presenza oramai strutturale, permanente, di sei paesi che hanno ripreso i controlli ai confini, di polemiche comunque crescenti nei confronti dell'Italia e della Grecia. Ancora stamattina il governo belga ha emesso una nota in cui continua a sottolineare che non c'è alcuna volontà da parte del governo belga di partecipare all'addio a Schengen, purtuttavia resta un problema nei confronti della frontiera esterna dell'Italia e della Grecia, chiaramente individuati. La presidenza di turno dell'Unione Europea, il semestre, quello olandese, ha dichiarato il premier Mark Rutte che in realtà ci sono pochi mesi per decidere o misure coordinate, oppure andando avanti così Schengen si rompe e si torna quindi ciascuno ai confini interni dell'Unione Europea a effettuare controlli di polizia e di sicurezza secondo i propri standard. Allora, di fronte a questo, il Presidente del Consiglio italiano stamattina a RTL 102.5 ha dichiarato così su questo punto. Trovo che ci sia un po' di misto di paura e mancanza di visione in questa ipotesi di chiusura di Schengen. Credo che sarebbe mettere a rischio l'idea stessa di Europa, spero che non succeda. Il governo italiano è dalla parte di quelli che ritiene giusto mantenere forte, molto pesante il controllo della polizia del territorio. Noi stiamo mettendo tante iniziative in campo per controllare, per verificare che non ci siano problemi di terrorismo, stiamo facendo del nostro meglio su questo. Ma questo non significa sospendere quello che è il presupposto dell'Unione Europea dal punto di vista della libera circolazione. Se avverrà, trarremo le nostre conseguenze, ma dal punto di vista della nostra posizione, la nostra posizione è a sostegno di controlli, di iniziative di sicurezza, di grande investimento dell'ideale europeo, non di sospensione dell'accordo di libera circolazione di Schengen. Allora, avete sentito la parola netta, anche il premier francese Valls ha detto no alla sospensione, però bisogna coordinare misure di sicurezza. La domanda che vi faccio io è: ma voi come considerereste il fatto di tornare anche alle frontiere all'interno dell'Unione Europea? La domanda che vi faccio è: secondo voi è qualcosa che non toccherebbe quel poco che resta della fiducia comune nell'Unione Europea, purtroppo scesa basso, molto in Italia, rispetto al fatto che eravamo tradizionalmente la testa delle graduatorie della fiducia verso le istituzioni europee? L'euro è sempre più discusso. Le procedure, lo scontro con la Commissione europea, ne abbiamo parlato tutti questi giorni da parte del governo italiano, è rovente. Sulle banche, ancora stamattina a Davos, il ministro dell'economia italiano Padoan ha dato una strigliata alla BCE dicendo che ha sottovalutato molto l'invio delle lettere sui crediti deteriorati alle banche italiane, lo stava facendo in tutta Europa, ma gli effetti che potevano avere sulle quotazioni in borsa mentre i mercati erano in bambola. Le regole comuni sugli aiuti di Stato ci vanno sempre più strette, le contestiamo. Se torniamo anche ai controlli alle frontiere, secondo voi resta davvero qualcosa nella fiducia pubblica, nella convenienza anche pubblica di questa Europa? Io credo che sia un profondo errore sottovalutare questo aspetto. Allora, questa è la premessa e la domanda che vi faccio io per intervenire in trasmissione all'800240024. Abbiamo qui con noi un ospite che secondo me nei giornali di questa mattina, tra tutti, è quello che ha reso il miglior servizio ai lettori, giudizio mio, ma fin da stamattina con Alessandro Milan lo abbiamo segnalato a chi ci seguiva in Attenti alle 2 dalle 8 e un quarto alle 9, perché le due pagine, pagina 2 e pagina 3, che la Stampa, quotidiano di Torino e Nazionale, dedica oggi a questo tema con due approfondimenti, sono secondo me quelle più serie nel dare un mucchio di notizie, cioè nel consentire al lettore, in questo caso all'ascoltatore, di chiarirsi le idee sulla partita in gioco e sugli effetti se si prendono decisioni o meno. Ci sono due grandi questioni, appunto quella sui confini esterni per valutare se, e questo ci riguarda da vicino per il Mediterraneo, riguarda anche la Grecia verso cui tutti polemizzano, Italia e Grecia, perché non siamo rigorosi nella video di identificazione, chiudiamo gli occhi verso migliaia di persone dicendo lo sappiamo che volete andare verso il nord Europa e così via. Allora la prima questione è: ma è possibile davvero immaginare che a breve, o comunque in tempi ragionevoli, con un accordo sulle risorse, andiamo a una guardia comune, per i confini esterni, compreso il Mediterraneo italiano dal punto di vista europeo? Prima questione. Secondo, cosa succede se Schengen invece salta dal punto di vista dell'economia? Si può quantificarne gli effetti, le conseguenze negative che il ripristino dei controlli ai confini interni avrebbe per l'economia delle famiglie, ma per l'economia nazionale, per i settori produttivi? Ecco, a queste due domande l'inviato da Bruxelles della Stampa ha dedicato esattamente due approfondimenti, quindi io avendoli letti gli ho detto vieni con noi in trasmissione e lo ringrazio di essere qui con noi oggi per spiegarci le cose come stanno su due questi aspetti, su entrambi questi aspetti. Marco Zatterin, appunto l'inviato da Bruxelles della Stampa, buon pomeriggio, grazie di essere con noi Marco. Buon pomeriggio a voi e grazie per le belle parole, soprattutto per l'invito. No, belle parole sono un complimento. Noi ogni mattina facciamo una graduatoria nostra di che cosa segnaliamo, perché diciamo se leggete questa roba qua capite meglio. Ecco, è una graduatoria. Senza pretese. Ma però, allora, cominciamo dall'aspetto, diciamo così, che più mi ha colpito di quello che dici, cioè la guardia esterna, sui confini esterni. Ma visto il tono che c'è nelle cancellerie europee, ripeto, la nota del Boy del Belgio di oggi, tutto sommato c'è una nota anche della Commissione oggi su questo tema, la nota della Commissione di cui leggo solo le prime righe perché è lunghissima, però dice nessuno parla di sospendere Schengen, ma solo eventualmente di consentire agli stati che abbiano ripristinato i controlli alle frontiere interne di prolungarli fino a un periodo massimo di 2 anni. Che insomma al paese mio è molto simile al fatto che comunque Schengen poi inizia a non esserci più di fatto. Ecco, però cominciamo dalla guardia esterna. Come stanno le cose secondo te? Cosa è verosimile pensare che possa avvenire? Le cose sono paradossalmente molto più semplici del dibattito che si sta costruendo intorno a loro. Il problema è questo, il problema è che le frontiere esterne dell'Unione Europea, in questo caso parliamo soprattutto della Grecia e in parte minore dell'Italia, sono sostanzialmente... Aspetta, ti interrompo solo per dire ai nostri ascoltatori, Grecia significa 845.000, cifre che trovate sulla Stampa, ingressi, Italia 143.000, quindi per questo soprattutto la Grecia. Esattamente così, sono 157 poi alla fine gli italiani, ma alla fine il dramma resta 10.000 più o 10.000 meno, purtroppo non fa differenza. Dunque la situazione è che noi abbiamo le due principali frontiere esterne esposte verso le grandi migrazioni dei disperati che fuggono dalla guerra e che non fanno il loro dovere, non fanno il loro dovere per un sacco di motivi, perché i flussi sono troppo copiosi, perché non ci sono gli strumenti e le risorse per applicare i controlli, per fermare la gente, per registrarla. E poi perché in fondo, guardiamo dal punto di vista italiano, in Italia arrivano 150.000 persone, secondo i regolamenti in vigore, il famoso regolamento di Dublino, l'Italia dovrebbe tenersi tutti questi 150.000 migranti sino al momento in cui non siano stati controllati e prese le impronte digitali e quindi verificato il loro status e quindi verificato se hanno effettivamente il diritto alla protezione internazionale. Vuol dire che l'Italia teoricamente dovrebbe tenere 150.000 persone per 18 mesi o 12 mesi. Questo non va bene naturalmente. E quindi bisogna trovare una soluzione che da un lato rafforzi la frontiera, rafforzi la capacità di filtro della frontiera e dall'altra parte consenta agli Stati membri dell'Unione Europea di condividere l'onere degli arrivi. La soluzione di rafforzare le frontiere creando un'agenzia di guardia di costiera, di frontiera comune è una soluzione che potrebbe aiutare. Non sarebbe un corpo permanente, sarebbe un numero, si parla di 1500 funzionari messi a disposizione dagli Stati membri che interverrebbero a fianco degli Stati nazionali per dargli una mano in caso di crisi. Ovviamente vale oggi per la Grecia e per l'Italia, ma in un domani potrebbe valere per un paese dell'Europa centro-orientale qualora ci fosse un disastro umanitario in Ucraina, per esempio. E quindi si tratta di rafforzare le frontiere esterne. Una volta rafforzate le frontiere esterne sarebbe probabilmente molto più facile convincere i governi renitenti alle solidarietà e all'ospitalità ad accogliere più gente subito. I due problemi, la solidarietà e la responsabilità, vanno insieme. Ma lunedì al vertice europeo dei ministri dell'interno, che appunto si occupa di queste questioni di Schengen, c'è una proposta in questo senso sul tavolo? Certo, non decideranno nulla lunedì, quindi diciamolo subito. Ci sono più proposte sul tavolo perché da maggio a dicembre la Commissione europea, che ricordiamolo, ha fra le sue funzioni quello di essere una sorta di ufficio legislativo dell'Unione europea, perché deve scrivere i testi di legge che poi vengono approvati dagli Stati membri e le decisioni sono sempre dei governi, non della Commissione. La Commissione fra maggio e dicembre ha messo sul tavolo una lunga serie di proposte, il piano per la redistribuzione, il piano per la riallocazione di quanti sono già nei campi profughi fuori dall'Europa e hanno il diritto all'asilo, fino alla creazione di questo corpo, questa agenzia di guardia frontiera. E quindi lunedì ci aspettiamo una discussione politica, una prima discussione politica che dia un contenuto politico a questo programma. Ed è interessante, ed è quello che abbiamo evidenziato questa mattina sulla stampa, il fatto che fra i compiti che potrebbero essere attribuiti a questa agenzia c'è quello di andare a fare gli stress test delle frontiere. Vuol dire che anche nei momenti non di emergenza, ma soprattutto nei momenti di emergenza, toccherebbe a questa agenzia andare nei valichi, nei porti, nei punti di approdo dell'Unione Europea a verificare se si è in grado di sostenere un'eventuale crisi, un'eventuale onda migratoria molto, molto grande, che poi più o meno lo stesso che hanno fatto con i conti delle banche, hanno fatto delle prove di stress, di prove di resistenza allo sforzo per vedere quanto e come una banca e tutte le banche sistemiche, cioè quelle che possono danneggiare l'Europa in caso di fallimento, possono tenere allo sforzo. Quindi lo stress test per le frontiere come per le banche serve a rinforzarsi e a far avere più fiducia in Schengen. Io sono molto favorevole a questa prospettiva, ma non mi nascondo che l'atteggiamento oramai delle autorità italiane è un atteggiamento di, tra virgolette, fastidio. Io uso questo termine, come si è visto chiaramente negli ultimi 2-3 mesi, ogni qualvolta si è riproposto la polemica sugli hotspot e sulle procedure di videoidentificazione, di fastidio. E a questo anche attribuisco la posizione italiana molto dura espressa da Renzi sulla quota italiana per i 3 miliardi decisi non dalla Commissione ma dal Consiglio europeo, cioè dai governi, come sostegno alla Turchia per le procedure dell'immigrazione, per affrontare fuori dall'Unione europea però la barriera dell'immigrazione, il flusso dell'immigrazione, e l'ho vista come una reazione del tipo: no, allora dovete dare più risorse a noi. Ieri sera Renzi, da porta a porta, l'ha detto con grande chiarezza. Però io credo che se ci pensiamo ancora a voler stare in Europa, questa faccenda delle frontiere esterne in comune deve essere condivisa, anzi deve essere vista come una cosa molto positiva. Francamente, quando abbiamo portato anche qui, ricordate, 3 settimane fa i rappresentanti delle forze dell'ordine italiane, il tono era leggermente diverso, un po' irritato verso le obiezioni che venivano alle nostre procedure. Adesso abbiamo un minuto di informazione sulle strade e andiamo alla seconda questione. Ma se Schengen salta per aria e torniamo tutti ai controlli, economicamente che cosa vuol dire questo? La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, stiamo parlando dell'ipotesi che Schengen salti per aria, di come affrontare comunque una realtà che vede molti paesi aver ripristinato i controlli sulle frontiere interne. Abbiamo esaminato la prima questione che riguarda invece le frontiere esterne, con l'ipotesi che possa finalmente partire un corpo europeo condiviso per vedere i punti deboli delle frontiere esterne, Grecia e anche Italia, e unirli quindi con funzionari e risorse europee. Ma c'è anche un'altra questione. Io ricordo che stamattina io ho citato prima il premier francese Valls, che è in linea con quello che ha detto e vi avevamo fatto sentire il presidente del Consiglio italiano Renzi. E Valls è stato più polemico, però, perché Valls ha detto chiaramente, l'ho detto in un'intervista alla BBC, che è stato dato un messaggio sbagliato ai profughi siriani e a quelli di altri paesi, cioè a quelli a cui riconosciamo il diritto di asilo, cioè che siamo in grado e pronti ad accoglierli tutti, perché ha detto noi non siamo in grado di accoglierli tutti. Il messaggio che dobbiamo dare è che non li accoglieremo tutti, perché questo, come si vede dalla proporzione, 1 milione di individui in pochi mesi non è in grado di essere retto e assorbito dalle nostre condizioni attuali in Europa, e ha un effetto destabilizzante. E poi ha aggiunto, se però non siamo in grado di proteggere i nostri confini esterni, è l'idea stessa di Europa che sarà messa in discussione. Quindi toni, insomma, duri, pesanti, non proprio concilianti. Allora, la seconda questione, sempre con noi Marco Zatterin, inviato da Bruxelles della Stampa. Quanto si può immaginare che pesi dal punto di vista economico un ritorno generalizzato alle frontiere interne con controlli di sicurezza, ciascuno a modo suo, nell'area europea? E se teniamo presente solo l'aspetto economico, possiamo un attimo ragionare sul notiziario delle strade che abbiamo appena ascoltato. Supponiamo che non ci sia Schengen, probabilmente a quest'ora di un pomeriggio del venerdì la voce che parlava avrebbe parlato di 50 chilometri di coda di attesa al Brennero, 30 chilometri a Ventimiglia e chissà quanti a Tarvisio o a Trieste. Il costo economico del ripristino dei controlli delle frontiere è immenso, e come è immenso il costo politico, e sarebbe un sacrificio sostanzialmente inutile per due motivi. Perché se uno chiude le frontiere e chiude Schengen perché ha paura del terrorismo, finirebbe per rinunciare ad una libertà importante per colpa di 10, 15, forse 20.000 foreign fighters, cioè combattenti islamici, su 500 milioni di cittadini, che mi sembrano pochi. Due, perché mi sembrano pericolosi, ma comunque pochi. Due, perché il flusso di migranti che arriva, sempre rispetto a 500 milioni di persone, è ancora relativamente basso, e soprattutto si mantiene relativamente alto perché non è stato fatto ancora nulla perché questi non arrivino. Quindi ci sono tutte le misure per salvare Schengen, ma supponiamo che Schengen non venga salvato, basta un esempio. È stato calcolato che un'ora di coda o di tempo perso per un trasporto commerciale, un tir che porta frutta, verdure, abiti o quello che volete, a un punto di frontiera costa 55 euro all'azienda che ha organizzato il trasporto. Ora, se noi immaginiamo che ci sono 60 milioni di tir che attraversano una frontiera nel corso dell'anno, e ognuno di loro può rimanere anche ore, ricordate quello che è successo al Fréjus in Piemonte, vicino a Bardonecchia, subito prima di Natale, può rimanere 3, 4, 5 ore ad aspettare di passare, ogni viaggio comincia a costare 2, 300, 400 euro di più, e quindi il costo diventa il miliardi. E allora possiamo permetterci di far gravare su un'economia come quella europea, che cresce ma è un po' asfittica, e ci sono sempre i rischi di una revisione al ribasso delle prestazioni, possiamo permetterci di far gravare su questa economia miliardi e miliardi di costo? La risposta è senza dubbio no, perlomeno la mia, ma non faccio il politico. No, nemmeno io, però insomma poi alla fine nell'articolo trovate, di questi esempi ne trovate parecchi, perché trovate l'esempio non solo sui 60 milioni e con la stima dei 55 euro fatta da Juncker, ma ci sono stime anche di transito di frontiera a frontiera che sono più commisurabili. Insomma, alla fine la stampa ha fatto una cifra del tutto approssimativa, ma come ordine di grandezza, che il ripristino generale, la fine di Schengen e il ripristino generale dei controlli ci costerebbe complessivamente 28 miliardi, diciamo. Ecco, cioè è un ordine di grandezza di punti di PIL italiano, per capirci, da condividere in Europa, però stiamo parlando di una crescita molto asfittica, ecco, e questo, siccome il commercio intraeuropeo poi è la parte dominante comunque del nostro export, del commercio estero, non è una cosa da sottovalutare assolutamente. Posso chiederti un'altra cosa al volo? Le ultime da Bruxelles sulla coda della polemica Italia, Commissione Europea, parole del ministro Padova stamattina a Davos nei confronti della BCE, si è un po' rasserenata la faccenda, e secondo te quali sono i tempi di chiusura del negoziato sul veicolo Bad Bank? Stamattina è uscita la notizia che c'è un incontro martedì tra Padova e la commissaria Vestager, è così? Esattamente così, abbiamo scritto sulla stampa stamattina noi, permettimi di dirlo. Allora, certo. Il clima, c'è tanta voglia di tenerezza qui in questo momento, nel senso dopo i toni maschi e virili, come ha detto Juncker, da Bruxelles stanno cercando di gettare acqua sul fuoco. Stamattina alla conferenza di mezzogiorno che c'è tutti i giorni alla Commissione Europea, i giornalisti italiani hanno cercato di buttare un po' di benzina, ma la Commissione non c'è cascata. Pompieri. E quindi loro vogliono ripristinare un rapporto normale. Fra poco più di un mese Juncker sarà a Roma, e quindi l'intenzione manifesta della Commissione in questo momento è di usare le prossime quattro settimane, qualche giorno, per tornare ad avere un rapporto nei limiti del possibile normale con l'Italia, nell'interesse dell'Italia, nell'interesse dell'Europa, anche perché ricordiamolo che l'Italia sta negoziando dei dossier importanti con Ilva, eccetera eccetera, quindi, e che sono anche molto importanti per Renzi, perché Ilva non si può permettere di perdere la faccia, lo si capisce da come ne parla. E per quanto abbia detto ieri sera, e io condivido, che non sarà decisivo questo veicolo volontario per le banche, per gli NPL, ma ne parliamo, cari ascoltatori, domani mattina dalle 10 alle 12 a Conti della Belva insieme a Carlo Alberto Caramale, MFM, Mario Seminerio, comunque sia è una vicenda che va chiusa, perché per MPS e nella attesa che entro un mese al massimo e mezzo, MPS trovi uno o due partner, passare per quel veicolo per i suoi 24 miliardi ancora di sofferenze nette è un sine qua non, quindi bisogna comunque immaginare la prossima settimana, non so se martedì o mercoledì, che questa vicenda del veicolo per far fuori un po' di crediti deteriorati dalla pancia delle banche che vorranno farlo con garanzia pubblica solo per la differenza del prezzo di cessione rispetto a quello di copertura della banca cedente, in qualche maniera questo accordo si farà. E allora io intanto ringrazio Marco Zatrin per il tempo che ci ha dedicato e per la precisione con cui segue queste vicende, continuo a farlo nell'interesse di tutti, un abbraccio e grazie, e sentiamo come la pensate voi. Cominciamo con Orlando da Firenze. Orlando, prego. Sì, salve Giannino, complimenti per la trasmissione. Volevo solo aggiungere qualcosa al discorso che si era fatto su Schengen. Sì. Io mi ricordo già ai tempi in cui studiavo, quando ho fatto di diritto pubblico internazionale, mi spiegavo diritto di asilo e di migrazione comunitario. E ricordo che già allora, si parla del 2009, tutto questo discorso comunque del potenziamento di Frontex era già sul tavolo, c'era già delle... Naturalmente sono poi le emergenze avvenute con la guerra siriana, eccetera, che hanno fatto cambiare tutto. Hanno aggravato ulteriormente la cosa. E, appunto, è un grande peccato, perché io, a mio modo di vedere, Schengen è forse una delle poche cose che hanno veramente funzionato. Sono d'accordo con l'Unione Europea. Sono molto d'accordo con lei. Un grande problema derivato dal fatto che chi, come Valls, vuole restaurare dei controlli interni, Chiaramente difficilmente si potrà fidare di un organismo europeo. Questo è il punto di fondo, secondo me, delle scelte politiche europee. E il grande ritorno all'autarchia nazionale che si vede non solo negli elettorati ungherese, polacco, eccetera, ma che soffia ormai in Francia, in Italia, perché si è visto in quest'ultimo mese, eccetera, eccetera. E quindi, però bisogna sapere che se poi torniamo all'autarchia e alla liretta, auguri, cari ascoltatori. So che molti non la pensano così, ma io invece la penso così, perché non me li sono dimenticati gli anni 70 in cui avevamo sempre il cappello in mano al Fondo Monetario e a Berlino. Allora, domani dalle 10 alle 12 parliamo di banche, quindi ci ascolterete a Conti della Belva, spero di sì, con Carlo Alberto, Carnevale Maffè, Mario Seminerio e Cifarelli.